Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. Brucia tutta velocità folle in questo momento dell'anno nel basket, è il momento più bello e più eccitante, anche più crudele se vogliamo, in campo come fuori, l'imprevisto e l'imprevedibile, come molto tristemente la vita di Mike Mitchell, un grandissimo della pallacanestro mondiale, del nostro basket che si è spento a 55 anni. Bruciano le finali NBA e nella notte c'è stato Dallas che si è portata ad un passo dal suo primo titolo. Bruceranno da domani le finali scudetto e c'è aria di nuovo anche sulle panchine in maniera importante. Oggi qui con noi è tornato un amico storico come Attilio Caia, mio e del programma. Ciao Attilio. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. E c'è ovviamente coach Dan Peterson. Ciao coach. Ciao Carlo, ci siamo visti ieri in centro Milano e ci sentiamo oggi. Ciao Attilio, un grande abbraccio. Buongiorno okay. Coach. Coach, è sempre un piacere vederti e tu lo sai. 800 24 00 24 è il numero verde. Allora, ieri la presentazione del tuo successore, no? Di sì. Sergio Scariolo sulla panchina dell'Olimpia e Livio Prolli, il presidente, che ha aperto la conferenza stampa di presentazione dicendo: Dan Peterson oggi non c'è, siamo d'accordo, però ti ha ringraziato in tutte le maniere e ha detto che tu resterai comunque nella società. Sì, come, in sì, che sì. modo? È vero? Cioè è già fatta, è già deciso, no? Sì, ma dobbiamo definire tutto, però siamo d'accordo sulla linea di massima, ma io sapevo, come anche detto a Sport Italia, che sin dall'inizio che non potevo fare più di quest'anno, okay? Quindi ho detto a loro sbrigatevi, adesso faccio un contratto per 6 mesi per dare a voi la massima flessibilità di trovare un allenatore che con un ciclo di 3 anni che io a 75 anni non posso promettere. Poi nella prima permanenza a Milano mi sono dimesso anche per motivi di salute perché non dormivo e andavo a bagno 10 volte ogni notte. Questa volta, come ho detto anche su Sport Italia, mi sono venuti dopo 3 settimane 3 ulcere, okay? E quindi con una cura antibiotici e le pile, le esoplane, quelle cose lì, cioè, quindi ha detto ancora maggior ragione, abbiamo sedato tutto con la medicina per permettermi di finire questa stagione, ma ovviamente non lo potevo fare, cioè, onorato e felice di averlo fatto, ma non posso proseguire, quindi volevo il miglior allenatore possibile per la squadra e abbiamo preso il miglior possibile, Sergio Scariolo, che ha vinto, cioè, con 6 diverse squadre, ha fatto finale scudetto, 2 in Italia, Scavoli di Pesaro e Fortitudo Bologna, 3 in Spagna, Tau Vittoria, Real Madrid, Unicaja Malaga e 1 in Russia con Khimki Mosca. Ha fatto 2 Final Four con 2 diverse squadre, Scavolini Pesaro e Unicaja, e come allenatore della nazionale spagnola ha vinto gli europei di 09. Un curriculum spaventosamente bello, okay? Quindi noi siamo molto ma molto felici avere lui all'Arena Olimpia di Milano, un grande evento per noi. Io ho sempre un sogno, Dan Peterson, come Red Auerbach ai Celtics, questa è la mia idea che ho detto più volte a questi microfoni. Attilio. Ma io, Carlo, devo dirti che in 3 diversi momenti sono andato al Palalido quest'anno a vedere gli allenamenti di Milano, quindi col coach, e poi ho seguito anche alcune partite e devo dirti che la squadra aveva un approccio molto positivo durante la settimana in allenamento e magari non sempre è riuscita a raccogliere in partita quanto seminava e quanto costruiva durante la settimana, perché magari un po' dal di fuori chi non vedeva superficialmente poteva avere idee diverse, invece prima di parlare bisogna vedere, documentarsi e così. Io ho avuto piacere di andare a vedere il coach e Mario Fioretti, che era stato un mio assistente, e ho avuto modo di avere, alla fine avevo questa sensazione che durante la partita non raccoglieva quanto semina, quanto lavorava e quanto creava durante l'allenamento. Questo era un po' un disappunto mio, penso anche del coach, ecco. Assolutamente, quindi grandi lavoratori tutti quanti. Però la cosa che c'è un po', due cose difficili per noi: non c'era un vero puro playmaker, leader, carismatico, non so, in squadra, e la cosa che veramente ci ha veramente messo in difficoltà è stato l'infortunio a Jonas Mačiulis, penultima partita della stagione, perché nelle ultime tre partite con Mačiulis avevamo una media di 84 punti, contro Cantù 61, contro Sassari più o meno 70, okay? Quindi abbiamo perso 14-15 punti, se non 20 punti a partita senza Mačiulis, perché innanzitutto faceva 13-14 lui e poi occupava spazio, apriva il campo per gli altri, tipo Hawkins, tanto per dire. Quindi è stato devastante questo colpo per noi. Eravamo, non dico favorite per niente, però in una buona posizione di fare qualcosa di più nei playoff, e quello lì ci ha segato veramente le gambe. Coach, hai qualcosa da rimproverare alla tua squadra o a qualche tuo giocatore? No, l'unica cosa è stata l'approccio sbagliato alla partita in casa con Biel. C'è proprio un po' di presunzione, non prontezza mentale. C'è proprio, e anche la colpa mia, perché ho fatto Petravis partire in quintetto 0-8, dopo due minuti ci potevo benissimo mettere lui dopo 5 minuti, tanto per dire, e questo ha lanciato loro. Quindi questo è un rammarico mio, la squadra magari non era pronta, no? Io ho fatto il sabotaggio tecnico dalla panchina, tutto in buona fede, ok? Però questa è stata la partita che veramente non ho mai digerito. Attilio, ma dal di fuori è una cosa che mi sembrava che a Milano potesse mancare, fosse anche un tiratore sicuro, un giocatore alla Mazzarino, un Lunen, perché magari c'erano tiratori che di striscia potevano far canestro, però quello sicuro, ecco, visto ha giocato contro Cantù in Lunen, un Mazzarino è uno che potesse fare una serie consecutiva su certi tipi di giochi. Questo forse è una mancanza che Milano ha avuto, strutturale. L'infortunio a Morris Finley anche lì, che ha giocato una partita per me, poi ginocchio fuori. Cioè, lui era veramente un tiratore puro, e proprio tiro veloce, preciso, uscendo dai blocchi, e anche la sua perdita è stata tragica per noi. Coach, per chiudere ti chiedo un pronostico, manco a dirlo, sulla finale che verrà. Ma neanche per idea. Neanche per idea. E allora sulla finale NBA, dai. NBA, insomma, Miami ha due partite in casa, devo vincere tutti e due, però Dallas ha dato dei buoni segni. Cioè io, nella mia testa, anche se fattore campo tutto per Miami, dico Dallas ha la possibilità, 51 Dallas, 49 Miami. Coach, grazie, tu resti ciao, con noi naturalmente, perché non finiamo qua. Grazie Coach Dan Peterson. Beh, in effetti Scariolo è stata una scelta ottima, devo dire che la scelta ha sorpreso un po' tutti, perché il nome più gettonato sembrava essere quello di Repesa. Beh, forse magari c'è stato anche un giusto depistaggio giusto così, perché chiaramente quando finito il campionato domenica, già lunedì sera è uscita la voce che Martì ci ha stato comunicato, vuol dire che era già nell'aria, però è stata sicuramente una grande mossa, sia nei tempi, vuol dire che puntavi decisamente, hai dato l'impressione di puntare decisamente su di lui, e sulla persona, perché Scariolo è veramente un personaggio di grandissimo livello, che il nostro basket recupera 15 anni dopo, grandissimo spessore, di conoscenza, di rispetto in tutto il mondo, non solo per il basket italiano, cioè un italiano nel mondo. Quindi il fatto di, anche a livello di giocatori, è uno che si è mosso molto, non solo come allenatore sul campo, ma anche nella formazione delle squadre, il fatto di anche essere allenatore della Spagna, certo, campione europeo come è stato, gli permette anche essere a contatto con certe situazioni, quindi di poter arrivare prima e di arrivare i canali giusti. Quindi veramente Milano è partita con un nuovo ciclo, con il miglior modo possibile. Palla spicchi. Torniamo insieme con Attilio Caia, 800 24 00 24, numero verde. Coach, non mi ha fatto un pronostico sulla finale che comincia domani, Siena contro Cantù, che credo sia la meno casuale delle finali, no Attilio? Mi sembra che Siena e Cantù siano le uniche, permettimi di immaginare, due case di mattoni in mezzo alle capanne, anche molto costose, Milano, Roma, eccetera eccetera, però l'idea di squadra di solidità la vedo soltanto in queste due. Beh, poi sviluppata in tutta la stagione, cioè dall'inizio alla fine, una continuità, una costanza. Magari ci sono state altre squadre che sono andate momenti di positività e diversi momenti di down, e loro invece sono stati costanti in tutta la stagione, hanno costruito giorno per giorno, pezzo per pezzo, allenamento per allenamento, e sono arrivati a avere questa diciamo della stabilità. Squadre che sono partite in un modo, sono arrivate in altro modo e sono riuscite ad arrivare a questa finale, che secondo me ovviamente Siena ha la squadra più lunga, ha maggiore esperienza, più fisica, quindi ha sicuramente qualcosa in più. Di contro Cantù è ha poco da perdere, quindi anche più leggera, dipende dalle energie fisiche e mentali, certo, che gli sono rimaste per fare una serie così ravvicinata, giocando ogni due giorni. Magari la serie può essere verso Siena, però con partite da un punto di vista tecnico sicuramente molto belle e molto interessanti da vedere. Diciamo che a Cantù si chiede un miracolo tecnico, più che tecnico fisico, si chiede un miracolo da questo punto di vista. Le si chiede di portare la serie al 2-3. Al 2-3 magari tutto può succedere, anche se c'è ovviamente tutto quanto è stato bruciato prima. Una serie 2-3, se si partisse così, no? Con due partite da vincere, sarebbe bellissima. Una serie su 7 contro Siena diventa, secondo me, una montagna troppo alta. Mirko da Milano, primo ascoltatore di oggi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche da Tidio Caia. Ma io volevo chiedervi, non volevo fare un intervento, volevo solo chiedervi una vostra opinione. Sì. Secondo voi nel basket l'allenatore quanto può contare? Cioè, è un gioco come il tiro al piattello, no? Dove conta la precisione, l'abilità del giocatore. Sì. Qualcuno dice che l'allenatore non deve fare pochi danni, dice qualcuno. Dice qualche allenatore, io non lo penso, perché una pallacanestro secondo me incide in maniera consistente, proprio perché c'è una gestione del campo e della partita molto diversa, ad esempio, rispetto a quanto accade nel calcio. Allenatore, coach, dimmi tu. Ci sono diversi momenti della stagione. L'allenatore, secondo me, è una parte importante nella formazione della squadra. Nella formazione della squadra, cioè capire bene il puzzle da comporre, pezzo per pezzo, giocatore per giocatore, e quindi avere un piano preciso, un'idea precisa, dove le caratteristiche tecniche soprattutto e poi anche caratteriali dei giocatori vadano a sposarsi. Se una squadra è fatta bene, poi dopo un allenatore gli può cambiare col suo lavoro un paio, due o tre posizioni in classifica. Se una squadra è fatta male, diventa difficile per ogni allenatore. Diciamo che quest'anno a Rimini l'allenatore è stato importante, mi pare, non perché sei qua tu, però mi sembra che perso Scarone a metà della corsa del treno, no? Poi dopo avete fatto una stagione eccellente. Conta anche un po' i pronostici di inizio anno tutti ci davano nella metà classifica, verso l'ottavo o decimo posto, il fatto di essere arrivati al terzo, che poi sai alla fine quello, bisogna partire da dei punti oggettivi. Se tutti dicono in serie di pronostico una cosa, e quella va presa per buona, va presa come asticella, come punto di riferimento. E tornando discorso di prima, dopodiché insomma io sono convinto che Pianigiani nel suo lavoro ci metta tantissimo, perché magari dice Siena è una squadra forte, verissimo, il sistema di Minucci è vincente, perché si è visto anche quest'anno con perso i migliori giocatori, la squadra è rimasta ad altissimo livello, anzi, certo, in Eurolega ha sfiorato la finale di Eurolega, si è fermata alla semifinale, quindi questo è un sistema vincente. Dopodiché però sul campo l'allenatore ogni giorno, e lo vedi nel fatto che non ogni partita la vincono, non regalano mai niente. Magari in altre occasioni in passato c'erano squadre più forti, però ogni tanto perdevano qualcosa per strada. Sì. Il fatto che Siena non perde mai niente per strada, questo va a merito del lavoro, certo, quotidiano dello staff tecnico. Ieri Scariolo ha detto: non ci poniamo obiettivi immediati, dobbiamo andare da Milano a Roma e dobbiamo fissare le tappe, arrivare prima a Piacenza, poi a Modena, eccetera eccetera. Ha fatto insomma l'autosole. Giusto così, devi sapere dove andare, ogni tanto avere degli step, fermarti, sì, per sapere, perché se sei a Venezia, cioè se sei a Brescia, dici aspetta un attimo che forse ho sbagliato strada. Massimo invece lui è a Cremona, quindi la direzione grosso modo è giusta. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo salutare il coach Caia, che a Cremona ha lasciato un grandissimo ricordo e secondo me poteva anche essere riconfermato. Niente, speriamo che la situazione siletaria, ovviamente voi lo sapete, adesso è abbastanza critica. Dopo tanti anni, finalmente arrivati in Serie A, ci siamo rimasti per 2 anni, speriamo che tutto non venga disperso nel nulla. E niente, volevo solo chiedere poi a Coach Kai come è stato l'anno di Piazza e Lollis, due ex giocatori di Cremona, e solo questo. Grazie, arrivederci. Grazie a voi, a lei, e io devo dire che a Cremona sono stato bene, è stata una parentesi molto intensa, perché da febbraio è stata una rincorsa durissima, prima c'era la squadra con 4 vittorie in 16 partite e noi per salvarci abbiamo fatto 6 vittorie in 12, raddoppiato, vincendo anche a Treviso e Bologna. È stata un'esperienza durissima, però bella, perché il risultato finale è stato importante. Poi vabbè, c'erano idee diverse. Però c'è tanto entusiasmo, io penso che in un momento che magari il presidente Triboldi ha qualche problema, però c'è un gruppo di solido, c'è il vicepresidente Vanoli che è un altro molto appassionato, molto solido, e quindi il futuro possa essere garantito. Poi magari qualcosina in meno, magari certo che una quota così importante non è facile dall'oggi al domani sostituirla, però il futuro è assicurato, e quindi insomma in un momento anche oggi sono altre più le realtà in difficoltà, Cremona sì, Cremona possa riuscire a mantenersi in una buona posizione di classifica, perché se c'è una buona struttura, anche se hai qualcosina di meno a livello di giocatori, però con la struttura riesci a avere valore aggiunto. Questo è anche il momento dell'incertezza, prima dicevo brucia quasi tutto, no, in questo periodo dell'anno, però l'incertezza di Teramo, che qui per la cronaca deve versare entro oggi, perché questo è il termine, i 500.000 euro più IVA. Più IVA, 600.000 euro più IVA per restare in Serie A, altrimenti sarebbe già festa per due, cioè Venezia e Casale Monferrato, che giocherebbero la finale soltanto per lo show, per lo spettacolo. Poi però ti chiedo qualcosa anche su questa finale di Lega 2, che è una che ha le porte. Paolo da Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo precisare, Paolo da Figio Serenza, paese nativo di Marzoracci. Molto bene, ha fatto bene a precisare. Attaccato a Cantù. No, niente, io sono tornato, ero uno dei ragazzini che allora aveva 20 anni quando Cantù è andato in finale. Sì. Sono tornato a frequentare i palazzetti in queste occasioni, no? Volevo fare un appello ai due volti nuovi di Cantù, che secondo me sono Trinchieri e la nostra presidente Benner, no? Che tanto viene inquadrata durante le trasmissioni delle partite. Le dice Anna Cremascoli. Bravissimo, e anche al nostro grandissimo Arrigoni. Io sono tornato al Forum di Milano dopo tantissimi anni che non andavo in trasferta con mio figlio. Avrei voluto sentire un tifo di Cantù un po' meno scontato, cioè le solite cose, appena entro nel palazzetto, milanese pezzo di M. Mi piacerebbe non sentirle più queste cose qua, no? Sì. Perché mi sembra che adesso che abbiamo parecchia visibilità, siamo tornati in finale, vorrei un tifo più elegante, via. Vorrebbe un tifo più elegante. C'è da dire anche che Cantù è uno dei pochi posti in Italia adesso senza. È chiaro che tutti lo vorremmo un tifo più elegante, però non eccedere neanche con i moralismi, perché sono dei limiti grosso modo fisiologici. Il tifo di Cantù è meraviglioso in generale, perché Cantù è uno dei pochi posti, tu ci hai giocato un miliardo di volte, Attilio, uno dei pochi posti, e questo può essere un fattore della finale, no? Vieni a vincere a Cantù, che poi vediamo. È un posto in cui quello che c'è intorno conta. Conta come? È un posto dove il fattore campo si sente, dove in una stagione regolare 2 o 3 partite il pubblico ti aiuta a vincere, ma in un modo lecito, in un modo regolare, assolutamente. Magari perché c'è una grande partecipazione, chi viene dal di fuori ne può sentire questo. E poi a Milano c'era veramente un numero incredibile di pubblico, la vicinanza, il fatto del derby. Possiamo discutere sull'eleganza, però io sono stato l'ultima volta a Cantù settimana scorsa a vedere gara 2, se non ricordo male, non ho visto una palla di carta che ho volato in campo, e questa è la cosa alla fine importante. Devo dire che secondo me in Italia il pubblico del basket in generale è sempre un pubblico corretto, positivo, di tutti i campi che vai, corretto, positivo, e io anche numericamente io riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno e non assolutamente guardare che c'è meno gente. Secondo me con sempre le difficoltà nazionali che ci sono, economiche, questi numeri per il basket secondo me sono già riconfermare positivi. I numeri sono assolutamente positivo. Sono d'accordo. Palla spicchi. Sempre con noi Attilio Caia, sempre 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, invece i vostri messaggi, come Roberto che scrive: sentir parlare di basket oggi aiuta a disintossicarsi. Sì, caro Roberto, aiuta, anche parlare di basket oggi aiuta un po' a disintossicarsi dopo la settimana vissuta, divertente anche se vogliamo sotto certi punti di vista, ma non certo semplice. Allora, il primo scudetto di Siena lo ha vinto Charlie Recalcati, lo ha vinto sul campo Jack Galanda. Ciao Jack. Ciao, buona giornata, come state? Tutto bene? Non c'è male, non c'è male, perché parliamo di basket oggi dopo le scommesse di ieri, l'altro ieri, di tutta la settimana, quindi meglio dei giorni precedenti. Senti Jack, aiutaci a leggere questa serie con Cantù. Difficile dire che non, insomma, che non c'è una strafavoritissima. Però io e Attilio stavamo discutendo su quante Cantù può portarne a casa. Ma sinceramente sì, Siena è favorita, ma soprattutto per il fatto di avere una panchina più lunga rispetto a Cantù. Sinceramente io sono rimasto sorpreso dalla stagione di Cantù e da come Cantù ha giocato, perché comunque a fronte di una panchina non lunghissima è riuscito comunque ad avere una continuità durante l'anno impressionante. Ha giocato molto bene, ha trovato continuo e forte della panchina da continui nuovi protagonisti, per cui sinceramente vanno veramente fatti i complimenti ai giocatori, alla squadra e all'allenatore, perché comunque hanno giocato veramente bene. Certamente sì, nonostante si sia dimostrata la seconda forza del campionato, vedo comunque una Siena che magari potrebbe perdere una o due partite, ma poi sulla serie lunga non dovrebbe avere problemi. Io continuo a pensare che sport, il nostro sport, sperando che sia ancora pulito, però direi che ci metterei la mano sul fuoco, almeno per quello che posso garantire io. Insomma, sicuramente il bello dello sport è il fatto di non avere un campione certo ogni volta, sì, di potersela giocare ogni volta e insomma, quindi di guadagnarsi la fama e la gloria sul campo. No? Senti, visto che ti conosco bene, sei un libero pensatore e che in fondo ti ci sei tirato dentro da solo, come hai vissuto questa settimana tra intercettazioni, bufale, menzogne, smentite e sensazioni? Ma a me piace sapere le cose come stanno prima di fare dei grandi proclami, per cui insomma, finché non si sanno, cioè, ho visto delle grandi sparate, anche perché poi prima dovevano essere coinvolti anche i grandi nomi, poi dopo non c'erano i grandi nomi. Insomma, quando si capirà bene veramente come stanno le cose, si potrà dare un giudizio definitivo. Sicuramente quello che c'è da dire è che insomma, dove in generale dove entrano i soldi, poi si crea un qualcosa di marcio alla fine, c'è una parte marcia che alla fine viene fuori. E più soldi ci sono, e insomma, io non amo scommettere in generale. Perché comunque mi piace lo sport più libero e appassionante possibile, però capisco che comunque ci sia bisogno al giorno d'oggi di un continuo investimento, un continuo bisogno di creare un business dietro a qualsiasi sì. attività, e in questo caso insomma si affida anche alle scommesse. Perché? Scommesse perché? Che devono essere però qualcosa di giusto, legale. Certo, che poi crearlo è facile, gestirlo è un'altra storia, no? Come infatti poi insomma si entra in un mondo che insomma non si sa poi mai dove si va a finire, perché ovvio c'è il legale, c'è il non legale, poi dopo può succedere di tutto. Il problema è quando il non legale entra e c'è anche il legale, cosa che certo succede, certo. Attilio, tu? Ma insomma penso che il problema delle scommesse sia anche di vecchia data, dove non erano legalizzate le scommesse, però chi voleva fare il furbo, chi voleva fare raggirare la cosa aveva altri modi che erano anche peggiori. Mi sembra che in questo momento ci siano abbastanza tanti millantatori in giro, mi sembra più fumo di quello che poi in sostanza ci siano, tanti millantatori, tanti poveretti che magari si cascano dentro in certe trappole e così via. qualcuno che magari vuol cavalcare l'onda per avere un attimo di notorietà, che perde la testa davanti a delle ribalte televisive e così via. E tutto questo fa sì che si butti del fango, si faccia tanta polvere, che poi alla fine, quando la polvere cade, rimanga dentro poco. Sì, anche se c'è un processo sportivo, non dimentichiamolo mai, che da questa polvere attingerà poi, perché è il processo sportivo, come sì, sappiamo, non è qualcosa che di più, poi è di aleatorio. Poi no? È pericoloso, Carlo, che appunto per il processo sportivo, per dover trovare dei nomi da dare in pasto, dei colpevoli, ci rimetta anche qualcuno che effettivamente, insomma, colpevole lo era, non lo era, ecco. Signori, col vostro permesso torno sull'Isola del Basket, perché io ne ho parlato già tutta la settimana e torno da Jack Galanda. E vado a Varese, grande stagione la vostra, è solo l'inizio, Jack, questa stagione? È il punto di partenza, a tua sensazione? Ma non posso parlare dal momento in cui non so ancora il roster dell'anno prossimo, perché comunque le cose cambiano le squadre, però sicuramente la mentalità della squadra, della società, è quella comunque di crescere, di voler crescere, di fare continui investimenti per salire. Secondo me, insomma, dall'anno in cui siamo proprio crollati e siamo scesi giustamente in A2, piano piano abbiamo ricostruito una società e insomma soprattutto una mentalità, un'identità, che ci ha portato tutti a salire insomma in Serie A, a poi fare un campionato dove ci siamo guadagnati bene la salvezza, e quest'anno abbiamo avuto accesso ai playoff. Secondo me, io ho concluso un po' con l'amaro in bocca, perché potevamo concludere un po' meglio la stagione, forse qualcosa potevamo anche fare di più, però insomma lo sport, dicevo prima, ci sono mille avvenimenti, c'è la sfortuna, c'è l'infortunio, c'è insomma la partita che vinci di fortuna, la partita che invece butti via, per cui alla fine sono contento della stagione, sono contento di come stiamo crescendo, e il mio augurio è quello proprio di riuscire ad arrivare il prossimo anno ai playoff preparati meglio, con maggiori energie, quindi di giocarcela un po' meglio. Questa, certo, diciamo, è la mentalità, perché secondo me è anche vincente, perché è giusto fare passettino dopo passettino, mettere i mattoncini piccoli per poi costruire qualcosa di importante. Non dimentichiamo che lo scudetto di Varese di ormai più di 10 anni fa fu costruito sì con una grande squadra, con grandi talenti che comunque giocarono un anno fenomenale, però gli anni prima si era giocata l'Eurolega, per cui comunque si era arrivati a dei livelli molto alti. C'era già una base di partenza più elevata. Ti chiedo ancora una cosa e poi coinvolgo il TOK, perché è un discorso che abbiamo fatto quasi per gioco io e Luca Chiabotti venerdì scorso. Però prima parlavo non a caso di una serie di finale al meglio delle tre, di playoff più corti. Magari dell'idea, un po' di retroguardia se vogliamo, e un po' demodé di una Final Four per assegnare lo scudetto. Forse potrebbe essere una sorta di decretazione d'emergenza, no? Visto lo stato del nostro basket. Però è un'idea così bizzarra secondo te, Giacomo? Ma il bello della pallacanestro sono sempre stati i playoff. Secondo me i playoff caratterizzano proprio il fatto di dare lo scudetto alla migliore. Credo che per quanto riguarda Final Four, Final Eight, ci sia la Coppa Italia, che comunque è qualcosa di molto prestigioso, e quindi insomma sono il bello è proprio differenziare queste cose. Secondo me la pallacanestro si è sempre distinta in questo, proprio per il fatto di avere i playoff, di dare più possibilità insomma alla più forte di dimostrare quello che vale. Grazie Giacomo, buon lavoro. Grazie, buon lavoro, ciao, vacanza, un abbraccio. Per cui sono buona vacanza più che altro. Grazie. Cosa ne pensi, Attilio? Sul playoff sono d'accordo, è giusto che ci sia. Ma con serie così lunghe? No, secondo me sono eccessivamente lunghe dal primo giro, dove già 5 partite al primo giro, obiettivamente. Quindi tu come lo disegneresti? Ma io rimarrei col classico 3 al primo giro, poi 5 alla semifinale e 5 alla finale, ecco. O a un limite ancora a vedere se 3 alla semifinale. Però di decretazione d'emergenza conoscenza, ma anche perché insomma i roster sono più ridotti, i giocatori arrivano molto stanchi, arrivano spesso infortunati, eccetera eccetera. Non ti dico come soluzione definitiva, però beh, no. Però è un fascino i playoff, Carlo. No, ma non ti dico di toglierli, però ripristinare la serie al meglio delle sì. tre partite, perché sai, ti giochi una finale, ad esempio, come quella che stiamo per vivere domani, al meglio delle tre, chissà come va a finire. La prima la gioca siena in casa con tutta la pressione del mondo sulle spalle, e chi lo sa, no? Ma anche 3 su 5 c'è una buona pressione, perché il margine di errore si diminuisce. È chiaro che su 7 il margine di errore è notevole, e quindi io penso che poi anche la gente, un giorno sì, un giorno no, portarla in palestra non sia semplice, anche dal punto di vista economico, anche perché poi dopo hai già fatto, arrivi in finale dopo aver già fatto 6 partite nell'arco di 15 giorni, quindi anche economicamente per la gente non è facile. Palla spicchi. Torniamo insieme con Marino da Reggio Emilia. Allora, Marino da Reggio Emilia, vi faccio sentire, buongiorno Marino, le faccio sentire prima una cosa, perché chiama da una città molto particolare. Finale anche in Serie A2, 2-0 per la CFM, lanciata in gara 1 dai 38 punti dell'incredibile, immarcescibile Mike Mitchell. Per me questo è un buono gara oggi, mia squadra gioca forte, anche Grizia viene qua per vincere la partita, ma mia squadra viene e gioca forte, tutti voi vincere oggi per la pubblica, anche per noi. Era un piccolissimo ricordo di Mike Mitchell che ha portato Reggio Emilia dove nessuno era riuscito mai. Non so se voleva parlare di questo. Buongiorno dottor Genta, lei grazie per avermi richiamato, mi ha colpito un po' nel cuore con questa registrazione, e quello che volevo dirle è che siamo rimasti molto colpiti dalla scomparsa di Mike Mitchell, perché Reggio Emilia ha lasciato, come anche a Treviso, ma a Reggio è stato qualcosa di particolare. La ringrazio per lo spazio e per l'emozione che mi ha dato. Ma ci mancherebbe. Io chiedo anche ad Attilio Caia, che l'ho affrontato molte volte dalla panchina, un ricordo di questo giocatore. Hai un flash di Mitchell? Ma sì, mi ricordo soprattutto, erano i primi tempi in cui facevo l'assistente a Taurisano e Zorzi, dove durante si facessero amichevoli spesso a Reggio Emilia, perché era Pavia, era vicino a Reggio Emilia. Mi ricordo anche durante la settimana questo grande giocatore che come affrontava le amichevoli, sai che di solito non è usuale, no? Per un giocatore così importante avere l'amichevole della mezza settimana, giocarla con grande professionalità, invece lui la giocava come se fosse la partita, e questo è uno di quelli che cose che ti rimangono dentro, ti fanno capire, e poi dopo che usi anche tu, no? Nella tua professione, perché ti fanno capire, dice ok, quello è grande, però guarda come fa per essere grande, guarda cosa fa durante la settimana per essere grande. E quella che avete sentito in questo racconto d'Antan, questa che avete sentito era la voce di Flavio Tranquillo, ma l'avrete riconosciuta tutti quanti, un po' più giovane, eh? Ciao Flavio. Buongiorno. Ovviamente con la squadra di Reggio Emilia abbiamo fatto sentire un tuo rapido commento su una delle tante imprese di Mike Mitchell. Attilio Caia ci ha dato questo suo ricordo, un tuo qual è? Il mio ricordo è una partita di playoff Reggio Emilia Reggio Calabria, in cui Mike giocava a centro e giocava contro Dean Garrett, che all'epoca era uno stoppatore terrificante, elevazione incredibile. Mike era già attorno ai 40 e saltava forse mezza gazzetta. E prima della partita, parlando, disse oggi posso tirare solo in gancio. E tutti gli dicevano, ma non hai mai tirato in gancio in vita tua? Lo so, ma contro Garrett posso tirare solo in gancio. Il risultato fece 7-8 ganci, non sto esagerando e non sto dicendo purtroppo per quello che è successo una falsità, e fece una roba come 33-35 punti in una partita che poi però vinse Reggio Calabria con un canestro di Sconocchini da centrocampo, dopo che un suo gancio aveva dato il +1 a Reggio Emilia, che secondo me è la sintesi della sua vita. Il giornale di San Antonio ha detto obscure greatness, grandezza un po' oscurata dagli eventi, però soprattutto grandezza. Emanuele, provincia di Ancona, buongiorno. Sì, salve signor Genta, le volevo fare due domande riguardo all'NBA, se era possibile. Abbiamo Flavio Tranquillo, quindi risponderà lui, già glielo dico naturalmente. Perfetto. La prima domanda era su questi playoff, se vi aspettavate comunque sia un 3-2 a questo punto, dato che comunque i Mavs erano considerati una squadra di veterani con solo Vinci, invece io in nottata ho visto un grande Terry e una grande difesa. E la seconda domanda era sui Boston Celtics, dato che sono tifoso, se c'era qualche novità di mercato, dato che comunque sia con solo Rondo e gli altri un po' sulle corde, non la vedo insomma bene. Sì, giriamo tutto a Flavio Tranquillo. Certo che nella notte è stata una partita incredibile, 112-103 per Dallas, in controllo totale fino all'ultimo periodo. Entra Dwayne Wade, mezzo zoppo per una botta presa, ribalta la partita in un modo nel quale, dal quale di solito non esci se sei la squadra rimontata. Invece lì 15-3 di parziale per Dallas, che riesce a vincere questa partita, prima vinta e poi quasi irrimediabilmente persa. Flavio? Beh, intanto ovviamente non me l'aspettavo, altrimenti sarei bravissimo nel fare predizioni, aprirei uno sportello di mago e similari, paragnosta. Non me l'aspettavo, però onestamente, essendo la quarta volta che succede, non può essere un caso. È evidente che Miami ha un enorme problema nel gestire vantaggi, perché non ci sono vantaggi da gestire nel basket. Non è che si può mettere un difensore in più e cominciare a fare possesso palla. Qui ci sono i 24 secondi, ci sono le difese, se tu smetti di attaccare mentalmente è un livello che non ti perdona. È abbastanza inverosimile che non siano riusciti a trovare una maniera di superare il problema dopo che è successo uno o due volte, ma adesso ormai diventa un problema mentale più che altro. Quanto a Boston? Mentre Boston, direi che la carta d'identità non fa sconti a nessuno. Credo che il vero problema sia capire come sarà l'NBA dalla prossima stagione in poi, perché non sarà a livello di regolamentazione, salary cap, eccetera, eccetera, quella che conosciamo oggi, e quindi bisogna vedere quale sarà il margine di manovra dei Celtics. Detto questo, non stiamo parlando di cariati, di decrepite che non possono più giocare, ma di una squadra che ha un buon nucleo e avrebbe bisogno di un paio di innesti probabilmente più centrati di quelli che ha fatto nell'ultimo giro di trade. Però ripeto, bisogna vedere quale sarà il margine di manovra. Certo. Flavio, grazie, buon lavoro. Un abbraccio a voi. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Io invece chiudo domandando ad Attilio Caia, ci resta solo la finale di Lega 2 da commentare. Questo Casale Monferrato Venezia, che potrebbe però stasera, per paradosso, essere soltanto una festa con pochissimo agonismo, perché c'è Teramo che, appunto, ricordo, deve, alla scadenza oggi ed è cronaca, deve pagare questi 500.000 euro per restare in Serie A. Se non lo fa è appunto festa per due. Sì, che se lo sarebbero anche meritate, perché hanno fatto un campionato sempre al vertice. Casale è arrivata prima, Venezia è arrivata seconda, hanno giocato una ottima pallacanestro, Casale una pallacanestro di grande sistema, di grande intensità, Venezia una pallacanestro, diciamo, più brillante dal punto di vista offensivo, con tre giocatori eccellenti come Clark, Young e Slay. Hanno superato avversari difficili, perché Venezia contro Veroli ha fatto una semifinale di altissimo livello. Anche qui la gara 5 è un po' stata un po' la fotocopia di quella che dicevi tu di Denver, Miami-Dallas, perché 77-60 più 17 per Venezia al 33esimo, 34esimo, parziale di 16-0 per Veroli, più uno, palla quasi persa allo scadere dei 24 secondi, tiro da non da metà campo ma a metà strada tra le punti di metà campo di Young, tre punti di tabella, ovviamente va dentro. Ciao. Interrompe quel parziale di 16-0 e dà la vittoria così. Però quindi vuol dire che gara 5 perdere così, anche tu ti sei meritato. Però playoff di altissimo livello, perché anche la nostra serie contro Veroli finita in 5 partite è stata di alto livello. Grazie Attilio, alla prossima. A voi. Dunque, Palla Spicchi ancora venerdì prossimo, poi il 24 giugno chiuderemo la stagione ospitando in questi studi Danilo Gallinari, ve lo dico già. Lo sport, per quanto riguarda lo sport, dalle 16.30 alle 17 di domenica ci sarà Dario Ricci, soprattutto per la pagina dei motori. Io torno con A Tempo di Sport lunedì prossimo per tutta la settimana, e come ricominceremo da grosso modo da dove abbiamo chiuso ieri, ho la sensazione. Grazie a Franco Piantanida in redazione e De Santis in regia. Ci sentiamo lunedì.